4 mattino di Alessandro Milan. Sei come il libro aperto, perché domande... fai sempre domande del cazzo. Yeah, lì si è. With Jamaica, doing mountains, shining down the river. All my friends there, pulling on the dreams, younger than the mountain. Brunetta dice, cioè capogruppo in suo onore, visto che è una delle ultime volte che ci vediamo. Sono le ultime volte che ci vediamo. Beh sì, perché il 5 luglio finisce, finisce la stagione. E il resto. Ma poi riprende, poi continua. E il resto, sì, e il resto. Vedremo. Vedremo. Renzi se l'è presa con me, ha detto... fronte del no, guidata da un mancato premio Nobel che sarei io. Sì. Beh, io sono onorato di essere un mancato premio Nobel. Beh, io ho lavorato e ho studiato, ho fatto 40 anni di professore universitario, forse vedevo dalla lontana il premio Nobel, poi non è arrivato. Lui non ha mai lavorato in vita sua. Se Renzi se ne torna a casa, io sono felice. Era disoccupato prima e torna a fare il disoccupato. Quando c'era Berlusconi, un odorino di regime lo sentivamo. Ma con tutti i giornali contro? Beh, vabbè. Con tutti i giornali contro? È la seconda cosa che le voglio dire. È che comunque... ma se Repubblica sparava dalla mattina alla sera? Vabbè, ma non apriamo. Ma adesso Repubblica, per carità, per Repubblica, per carità, il Corriere, Zanetti, la Stampa, Zanetti, Libero. Zanetti, facciamo rispondere. Il Messaggero, il Gazzettino. Zanetti, rapidamente. Dobbiamo parlare di economia. Topolino. No. Come la mettiamo? Topolino. Topolino. Insieme. Come la mettiamo? Martire della libertà. Niente, comunque questa storia di Brunetta e l'ossessione per il Nobel mancato deve essere da esplorare. La vorrei esplorare a lungo in lunghe chiacchierate su un lettino così, psicanalista. L'ossessione per il Nobel mancato di Brunetta. Buongiorno a tutti cari ascoltatori, saluto Massimo da Paratico Lago d'Iseo, saluto Dieng da Paese in provincia di Treviso, che è un paese che si chiama Paese, Dieng, paese dal paese di Paese, Treviso. Saluto Gino dalla ridente Rea. Cos'è? È vero, paese in provincia di Treviso. Grande Dieng. Va bene, il Nobel di Brunetta. Brunetta che va da Giannini a Ballarò per dire, manifestare solidarietà per i giornalisti cacciati da Renzi. Cioè, capito? Brunetta con Berlusconi, l'editto bulgaro, va da Giannini a manifestare solidarietà per... Vabbè. Milan, qual è il tuo profilo pubblico? Quello. Voglio vedere il tutorial per aprire il cocco. Sì, ma anche Mario da Caserta mi dice: possibile che non trovo il tuo video tutorial per aprire il cocco? Andate su Facebook, il mio profilo pubblico, Alessandro Milan. Non quello privato, vi prego, non chiedetemi l'amicizia lì. Sul profilo pubblico. Allora, mettiamo su 24 mattino. Andate su 24 mattino. Abbiamo messo la stringa, il link, l'indirizzo. Che vi indirizza l'indirizzo al coso pubblico, non è difficilissimo, porcaccia la miseria. Cercatelo un po', abbiate pazienza, dedicate 2 minuti a questa cosa e scoprirete come aprire una noce di cocco con un banale coltello. Banale, un po' lungo, insomma. Anche ieri ne ho aperta una a casa. Quattro colpi, ta ta ta ta, e i bambini mangiavano felici il cocco. Una cosa che per esempio Marione Adinolfi non è in grado di fare, io ne sono sicuro. Marione, buongiorno. Ma è stato utile consolare i bimbi con... Puoi usare la coppa, sì, sì. Quadrato, Morata! Hai visto che io lunedì non ti ho chiamato? Probabilmente provocato al tuo figlio, mi pare giusto consolarlo col cocco. Io lunedì non ti ho chiamato, vedi? No, non ti ho chiamato. Tu c'eri allo stadio? C'eri allo stadio? E certo che c'ero allo stadio, sempre c'è la Juve. Ho fatto anche in modo, ho fatto anche in modo di non chiamarti, perché ho detto porterà sicuro. No, ma perché insomma c'erano dei cartelli, insomma, che... Ma tu lo sai, questa cosa la devo raccontare. Ero lì in tribuna e sono passato davanti, cioè c'era Mattia, mio figlioletto, tutto bardato di rosso nero. Sono passato davanti ad Andrea Agnelli per motivi che non ti sto a spiegare. Sì. E Andrea Agnelli, devo dire, e con lo stile Juve, ha avuto un moto quasi un po' di stizza, perché era tutto bardato di rosso nero. Tra il primo e il secondo tempo, forse per scaramanzia, si è un po' ritratto, ha detto: ma che è? Cioè, lo stile Juve, cioè L apostrofo ostile Juve, eh? Che bella, però. Che classe. Bella, il presidente Agnelli. Il grande presidente Agnelli. Gli è passato a fianco un bambino rossonero. Mamma mia, che è? Un gatto nero. Bravo, presidente. Allora, insieme a Marione Adinolfi, saluto la nostra Aurorina. Aurorina Lussana, ormai. Eccomi. Una donna che sarà benedetta da Mario Adinolfi, lei che porta avanti una gravidanza, lei che... Cosa ascolti? Semplice, su un po' di Wagner la mattina. Wagner. Si sveglia con Wagner, capito? Io con l'inno della Juve e tu no, con vabbè, Wagner. Devo dire, cioè, sta roba qui del cocco mi ha profondamente deluso, Milan. Perché? Cioè, no, vabbè, non so, a partire probabilmente dalla tua cultura, mangiare i cocchi, non lo so. Io ti proponevo un non lo so, la tua cultura enogastronomica, non lo so, la cultura aborigena, non lo so. Io ti dico solo. No, ho capito, ma perché non fai un tutorial su mangiare la cassola? No, che sei capace di menare col tarello nel paiolo la polenta. Ah, menare col tarello. Uomo lombardo. Certo, Marione, ma sarai lombardo, te, sì. Mila, ma sarai un uomo lombardo. Ma cosa c'entra? Tu sai impara a menare la polenta, Milan. Menare col tarello, peraltro. Certo, con cosa la vuoi menare la polenta? Vabbè, non lo so. Serve il tarello. Se uno c'ha il tarello, bisogna averlo. Andiamo avanti. Wow, andiamo. Povero Wagner. Vabbè, andiamo avanti. Allora, Marione, so prima una noce di cocco col coltello. Tu hai mai aperto una noce di cocco? Cosa usi? Martello, cacciavite? Devo andare a fare Robinson Crusoe. A che serve questa cosa? Cioè, avrei mangiato una noce di cocco in vita tua? L'hanno comprata già aperta, perché la devo dire io? Mamma mia, questo imborghesito l'hanno comprata già. Ma a Milano ci sono le palme, ma c'è mamma. Va bene che siamo all'africanizzazione ormai. Niente, neanche una noce di cocco. Anche per Aurora Lussana, mangiare una noce di cocco è simbolo di globalizzazione, africanizzazione. Quando vai nel loro paese è una meraviglia. Io sono rispettosissima di tutte le tradizioni agroalimentari del mondo. Mangino noci di cocco a casa loro. Ecco. Diciamola così. Dai, dobbiamo aprire il Parlamento. Marione, raccontami un po' come sta andando questa campagna elettorale. Candidata a Roma, si sa, per il popolo della famiglia. Straordinaria campagna elettorale. Oggi una raffica infinita di iniziative con le persone. Beh, Roma è grandissima. Roma è 8 volte Milano come gestione fisica, per cui anzi poi vengo pure a Milano, perché io tanto triste il popolo, la famiglia in tutta Italia, quindi vengo domani. Quando? Domani sono a Milano e dopo domani invece vado a fare i comizi a Rimini e a Bologna, quindi in piazza. La compagnia è bellissima, diciamo la vita, la politica la capisce, quindi Milano ovviamente è escluso. La politica è questo. No, perché non la amo, perché non la capisco. Entrambe le cose. Ottimo. il dato vero è che questo contatto così ravvicinato anche con i contestatori, perché a ogni commissione ci sono i contestatori, certo. E che ti dicono? E che ti dicono? Solite robe. Omofobo. Ma non dicono, devo dire che sono, devono arrivare un po' più preparati, non conoscono la legge, non siamo in DL Cinità, vabbè, adesso. Il dato interessante è l'incontro con tantissime persone, questo è incredibilmente. Vabbè, fai un pronostico, dai, quanto prendi di percentuale a Roma? Vado al ballottaggio. Va al ballottaggio, va bene. Ma qui... la Luzzana che ride dietro, va bene. Qui siamo... siamo al delirio, al ballottaggio. Cioè, al ballottaggio con chi? Con Virginia Raggi? Io ho parlato al Circo Massimo 3 mesi fa, e c'era un po' di gente. Ma con chi? Con chi al ballottaggio? Con chi al ballottaggio? Ma non lo so, secondo me non ci va la Raggi. Io ho questa idea che la Raggi... Fa il pronostico fino in fondo, quindi ballottaggio Adinolfi? Credo Adinolfi Giachetti. Adinolfi Giachetti, è che al Circo Massimo non c'erano solo italiani 3 mesi fa, sbaglio, nel senso non è che no, cioè c'era tutto, voglio dire, era una manifestazione di italiani. Io, miei amici, o romani. Erano italiani. Però insomma erano tanti. Ora pensando che al Circo Massimo ci fossero solo quelli, che tutti fossero lì, c'era pure qualcuno a casa che magari sosteneva le posizioni. Sì. Io l'ho visto da casa perché non sono riuscito. Capito, ma tu non voti, tu sei di Cantù, non voti appunto a Roma. Ma perché tu voteresti a Adinolfi? No, tu voteresti ovviamente la Meloni perché è appoggiata a Roma. La Meloni, si è ricordata. Ah sì, c'è un nostro candidato. Ah sì, la Meloni, è vero. Dovresti votare la Meloni, scusa. La Meloni, sì, povera. Ma sta litigando con Salvini tutti i giorni. Esatto. Anche perché questo regalo dei 40 euro sul grande raccordo anulare. Sì, Salvini è venuto qui alla Zanzara a dire che bisognerebbe pagare il grande raccordo anulare. Cioè, le tangenziali milanesi le paghiamo tutte, che se sbaglio a entrare a Grasse pago 4 euro, per dire. Sì. No, nel senso, le tangenziali milanesi sono a pagamento, tutte. Tutte un successo elettorale meraviglioso quando dal figlio ha detto questa cosa. Infatti. Stata molto apprezzata dalla Meloni stessa, che l'ha presa proprio molto bene. Sì, ho capito, però siamo sempre lì, sentiamola la Meloni. Non è che uno non può dire le cose impopolari se no la Meloni, sentiamo Salvini o la Meloni. La Meloni. La notizia certa è che non facciamo pagare il GRA. Eccolo. Nessuno di noi ha mai pensato lontanamente di farlo, sarebbe una cosa stupida. Addirittura io voglio togliere il pedaggio che si paga a lunghezza. Stupida! Ha detto stupida! Ma non è pedaggiabile, l'avevano già definito anni fa, non è pedaggiabile. Allora, Salvini, che dice Salvini? Ha preso una topica. No, allora, però, ripeto, è vero, cioè, intorno a Milano, quando te giri intorno a Milano paghi, intorno a Roma non paghi. Sì, non dovunque, cioè, se io vado a Linate non pago. Cioè, tutto quel pezzo lì, ho capito, tutto più o meno il raccordo che abbiamo intorno a Milano, sì, è a pedaggio. Il problema era che la Meloni aveva detto una cosa su Giorgio Almirante che non piaceva a Salvini, e Salvini ha detto una cosa che non piaceva alla Meloni, il che ora non depone benissimo per l'alleanza, diciamo così. Ecco, ma guarda, pensa che l'avevo capita perfino io, Mario. Vedi la politica come bella. L'avevo capita perfino io, cioè che a Salvini non era piaciuta sta roba d'Almirante, allora io ti dico una cosa per metterti un bastoncino tra le ruote, che effettivamente tra alleati insomma non depone molto, non va a favore. Benissimo, quindi la Meloni via, Adinolfi già, tanto c'è, non c'è questa cosa della Raggi che è etero diretta da Milano, e questa cosa ai romani piace. Il fatto che ci sia la Casaleggio associata a governarla non è una cosa che è gradita molto dai romani, quindi se uno mi ha sorpresa. Ci sarà Adinolfi Giachetti, questo è il ballottaggio. O Marchini, che è uno che in questo momento adesso, va per la peggiore. La prima che hai detto Adinolfi Giachetti. Se invece non dovessi, puta caso, proprio per sfiga, non andare al ballottaggio, chi appoggia? E vado a girare la polenta insieme alla Lussana. Col Taretto. Insegna qualcosa sul Taretto. No, vabbè, dai, voterai poi al ballottaggio. Se vanno, che guarda, ne so. Io ho un'idea personale, però c'ho l'11 di giugno convocata l'Assemblea Nazionale del Popolo e della Famiglia, che deciderà cosa fare. La tua personale? La mia idea personale è di andare a votare scheda bianca, cioè darci a contare con le schede bianche. Scusa, io vabbè sono qua in esilio a Cantù, in Brianza, che devo presidiare il territorio, lo sai. mi sono persa una roba, ma per la famiglia di Nolfi che mi interessa in questo fase della mia vita, cos'è che propone giù a Roma? Giù no, a ma Roma. Proprio cioè per tipo soldi. Per le famiglie. Allora, sono le prime tre, perché abbiamo fatto un programma molto complesso, diciamo le metto le prime tre che sono importanti. Una è subito piaciuta perché si chiama assegno di maternità declinato dal governo come bonus bebè, ma universale a prescindere dal reddito legato alla cittadinanza, anche agli stranieri, facciamolo anche agli stranieri, ai cittadini romani, anche agli stranieri, capito Aurora, non ti piace più. Ai cittadini romani, a voi anche non esiste la cittadinanza romana, esatto, la cittadinanza italiana. Come si fa la cittadinanza? Stai 2 anni a Roma? Cioè, i cittadini romani vuol dire essere residenti romani. Quindi anche gli stranieri. Anche a chi è residente a Roma è straniero. Cioè, i residenti a Roma non sono tutti cittadini italiani. Non gli piace più. Se passa la residenza, quel requisito. La residenza è legittima, non sono clandestini, come direbbe Eustachio. Non gli piace più, la dai anche ai giargianesi, come la chiama lui, come li chiama lei. Volesse l'assegno matrimoniale, quello l'ha perso la Lussana, trasferiva, mi sarebbe stato l'assegno per le giovani coppie under 35, ora non indago le date. Ma per quanto? Per quanto? Per un anno? L'assegno matrimoniale è per il matrimonio, cioè al matrimonio. Gli 80 euro di Renzi per il matrimonio. E poi... E a quant'è questo assegno? 2500 euro. Ti paghi un po' nel pranzo, ti paghi il fotografo. E poi, oppure lo fai un matrimonio anche contenuto, non è necessario spendere 2000 euro di fotografo. Ti paghi il fotografo e quello che fa il video. Ormai sono i cellulari, non c'è bisogno di chiamare. Ti paghi le bomboniere, fotografo e bomboniere, dai. E poi c'è la questione delle quelle che abbiamo chiamato le colonie del male, cioè estirpare il fiume di toga che sta attraversando questa città, devastando. L'altro giorno è stato ammazzato un povero signore di 75 anni da una bottigliata di un alterato. È vero. E purtroppo i livelli di violenza anche dopo Juve e Milan, ve lo dico seriamente, quello che è successo è stato incredibile. No, questo è stato terribile. Così, totalmente senza senso, data un poveretto che sta come putella di forza, una roba da pazzi solo perché fiumi di droga alterano le coscienze in questa città di 200.000 giovani in ogni fine settimana. Droga vuol dire cocaina, eroina, MDMA, anfetamine, il tutto in piazze di spaccio completamente note. Chiunque sia di Roma sa dove si va a spacciare. Però questa è una cosa, devo andare al traffico, più da ordine pubblico, se mi permetti. Per andare, io ci vado in fascia tricolore all'isola pedonale del Pigneto, a indicare alle forze di Roma Capitale, lo sanno anche loro. La fascia di loro, fidati che la piazza di spaccio dell'isola del Pigneto si chiude. Quindi non solo va al ballottaggio, c'è già la fascia tricolore, è sindaco. Andiamo al traffico che poi entriamo. E vai col traffico! Capra! Ma ogni candidato sindaco a Roma dice una stronzata a modo suo. Figlia mia, quanta chiacchiere per guadagnare qualche voto, ma speriamo che perdano tutti quanti. E metto commissario nata vota, la tronca. Basta, non ce la faccio più. Voi fate tutti i diplomatici, leggete i giornali, siete intellettuali, dite la xenofobia, ma un po' di regole? Mi rubano il gatto, faccio una strage. Secondo me Aurora dovrebbe chiamare la figlia Alberta da Giussano. Sarà l'Aurora, il sindaco di Cantù. Chi lo sa, cara Aurora, prima c'è da sfornare Alberta da Giussano, hai sentito? Non è prima male. La famiglia, come dice di oggi. Prima la famiglia. No, però c'ha ragione. Prima la famiglia. No, c'ha ragione, le famiglie sono importanti. Hai visto oggi il Corrierone che cosa ci racconta? Milione di bambini in Italia vive in povertà assoluta, l'ultimo tabù degli italiani, questa è la disuguaglianza. Mentre Renzi pensa al G7 su sugli immigrati, sui profughi, e ieri la nostra Marina Militare è andata nelle acque libiche a salvare i poveri disperati. Che doveva fare? Doveva farli ammazzare? No, no, ma va bene, i domeni sgomberano il campo, i verdi vincono in Austria e fanno i controlli al Brennero. No, ma giusto, noi dobbiamo salvare tutto il mondo, intanto in casa nostra un milione di bambini che tanto non votano e quindi... chi se ne frega dei bambini vive in povertà assoluta. No, non va bene. Scartano 2000 al giorno. I trafficanti, hai visto, adesso usano i gommoni cinesi, i motori del Qatar. Stavo vedendo la ripresa degli sbarchi, 2000 al giorno, ma va bene così. Delle nostre famiglie. Però quelli sei d'accordo che andavano salvati? Ma cioè... salviamo tutto il mondo, Milan, va bene. Ma non è questione che salviamo tutto il mondo. Io vorrei un mondo in cui la gente non si sposta perché sta ma bene infatti, dove sta. Però... infatti, di sicuro per gli xenofobi quella nave non partiva, quella bimba che continuano a far vedere di 9 mesi non rimaneva orfana della mamma, perché la sua mamma non moriva in mare. Era per gli xenofobi che vogliono proteggere le frontiere, era ancora al mondo la sua mamma. Vabbè, eccoci qua, dai. Ma quando è che è la data esatta, peraltro? Se il buon Dio vuole, se la provvidenza vorrà, pare a luglio, fine luglio. Ma che sei, una gravidanza di 12 mesi? Cosa fai? Come? No, non lo so. Ma quanti, sono sempre 9 mesi anche a Cantù. Il fattaccio... accadrà quando accadrà. No, ma io me l'ero segnata a maggio, giugno. Ma cioè... no, mi sono sbagliato. Allora, il fattaccio è successo a novembre, fai i conti. Sai, questa è bellissima, Marione, perché ce l'ha raccontata, cioè è tutto merito della Boldrini. Tutto merito della Boldrini, perché ha espulso per una settimana l'onorevole Molteni, che è il marito dall'aula, e quindi espulso non poteva neanche presentarsi in commissione. Che faccio? Torno a Cantù a casa, e tornando a Cantù a casa. Non c'è mai, sempre a Roma, è sempre a Gazzetta. Diciamo, Boldrini lo sapeva, non lo espelleva. Galeotta fu la polenta. Non lo so, è sempre in giro, è sempre a Roma, è sempre a Gazzetta. Poi convegni, ma sarà è sempre in commissione, non lo so. Invece ha usato il tarello, è bravo. Io non lo volevo dire. Oggi in Sardegna, mi pare. No, ma per noi con Salvini, ma mica in vacanza. In Sardegna per noi con Salvini. Certo, si vota anche, noi con Salvini si presentano anche in Sardegna. Io ci vado lunedì in Sardegna, anche proprio la famiglia. Sì, io ci vado dal 10 al 17, ma vado in vacanza. Politica. Ah sì, devo fare questo annuncio nella settimana prima del referendum, del ballottaggio, dove tu ci sarai ovviamente, Marione. Io sono però in vacanza, ho preso una settimana di vacanza. Che devo fare? Non sei in studio? No, non sono in studio. In vacanza? Dal 10. Ma non si fa prima del ballottaggio. Ma tanto c'è la par condicio, ci mettono i ceppi, E vabbè, però è bello il ballottaggio, vabbè. Ma se non puoi raccontare niente, non puoi dire nulla, non puoi neanche dire c'è Mario e c'è fuori quello dell'autority che ti prende, ti preleva direttamente. Vabbè, sentite qui il senatore Danna, ve lo devo far sentire, a un giorno da pecora. Che il motivo per il quale è stata assegnata la scorta a Saviano processualmente dimostrato essere inesistente. Quindi se fosse per lei gliela toglierebbe? Se fosse per me gliela toglierei, certo. Perché tutto sommato è uno che ha copiato la metà di un unico libro, cioè, non c'è nessuno che vuole uccidere Saviano. E anche questa è sentenza, ma chi lo deve uccidere? Saviano? Chi dà fastidio Saviano? Saviano è un'icona, farlocca. È un'icona, hai capito? Ma vi rendete conto? Un'icona farlocca, ha scritto un libro, peraltro ne ha scritte anche altri. Comunque te, pur di non parlare di Renzi, la Boschi e il disastro di Firenze, mi parli anche del senatore Danna di Sala stamattina. Ma dai, uniaco, ne vogliamo parlare. Ma io a Firenze penso ai poveracci che hanno perso la macchina. Ma certo, e che fortunatamente... vabbè, anche lì, voglio dire, anche insomma patrimonio di tutti noi. Certo, capito, ma dai, che dobbiamo dire, piove, si rompe come libro. Si rompe il tubo, Renzi ladro, Firenze ladro, no? Vabbè, la società che gestisce Uniaco, insomma, è una società molto molto renziana, diciamo così, dalla Boschi in poi. Ho capito, però non stiamo ad esultare, no? Perché se ma che un pezzo no, è un dramma, ma no, era rotto. Però scusa, a parte che Nardella l'aveva detto di spostare la macchina, quindi quelli che hanno lasciato lì la macchina